Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ci sono notizie che riempiono il cuore di soddisfazione, di fiducia, di speranza, che aiutano a guardare il futuro con più ottimismo, e la storia da cui partiamo oggi è sicuramente una di queste. Una mamma ha donato il rene a suo figlio, un bambino di soli 3 anni, liberandolo dalla dialisi a cui era condannato da quando aveva 1 anno e regalandogli una seconda chance per fare una vita normale e crescere come gli altri bambini. L'intervento, che si può definire molto raro, considerando che in Italia negli ultimi 15 anni sono state pensate eseguite solo 5 operazioni di questo tipo su bambini così piccoli, accende speranze per tutti quei bambini in attesa di un trapianto di un rene nuovo. Parleremo tra poco con il chirurgo del Policlinico di Milano che ha eseguito l'operazione e che ci spiegherà la portata di questo intervento e anche la tecnica innovativa che è stata utilizzata e che ha permesso di eseguirlo con successo. Nella seconda parte continueremo a parlare di reni, ma facendo una sorta di viaggio a ritroso. Infatti parleremo di prevenzione, perché ci sono tante malattie renali, ma alcune di queste potrebbero essere prevenute evitando dialisi e ricorso al trapianto, con un po' di informazione e sensibilizzazione in più e con dei semplici controlli. Per saperne di più iniziate a prenotare il vostro intervento all'800 24 00 24. Allora, mi è piaciuto molto il tuo presupposto, Nicoletta, parlavi di notizie che riempiono il cuore di soddisfazione, fiducia e speranza. Purtroppo quando parliamo di soldi investiti sui mercati finanziari, tutte queste considerazioni non si possono fare tanto spesso. Allora, l'unica cosa che posso dire è che, belle o buone che siano le notizie che riguardano l'economia e la finanza mondiale, appunto, vanno in ogni caso seguite, perché alla fine ci interessano sempre direttamente, per cui invito i nostri ascoltatori a restare con noi anche per seguire la seconda parte del nostro programma. Quando volteremo pagina ci occuperemo di denari, oggi è giovedì, sedendoci sui banchi della nostra scuola di risparmio. L'ospite di oggi è ancora una volta Vittorio Gaudio di Investire Informati, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi. Abbiamo una buona notizia, perché le borse nelle ultime giornate ci sono apparse un po' più tranquille, ma nel mondo i temi finanziari continuano a richiedere molta attenzione e non possiamo mai abbassare la guardia. C'è ancora la crisi cinese, c'è ancora la paura per la situazione delle banche europee, ci sono le regole nuove per i fallimenti bancari, c'è ancora il petrolio che continua a scendere, in questi giorni si è un po' stabilizzato ma i livelli sono tuttavia molto bassi, c'è la paura per la Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, e ancora la politica monetaria. Non possiamo poi dimenticare il duello per la presidenza degli Stati Uniti d'America, che inizia ormai ad entrare nel vivo, e per la finanza l'anno elettorale americano è sempre molto interessante. Commenteremo tutte queste notizie a partire dalle 11:20 circa. Voi intanto, se avete qualche curiosità, 800 24 00 24 è il numero verde che fa per voi. I medici lo definiscono un intervento rarissimo. Per i non addetti ai lavori è un chiaro esempio dell'amore di una mamma per il suo bambino, tanto da non esitare a donargli un rene per permettergli di condurre una vita normale come quella degli altri bambini. In ogni caso, sicuramente qualcosa di grande e importante è avvenuto al Policlinico di Milano il 15 gennaio scorso, e oggi, a distanza di poco più di un mese, il tempo necessario a consolidare il buon successo dell'operazione, ne parliamo col dottor Claudio Beretta, che guida l'unità operativa di trapianto di rene alla Fondazione Cagranza Policlinico di Milano, che ha eseguito l'intervento. Buongiorno dottore, grazie. Buongiorno per essere con noi. Grazie a voi e complimenti soprattutto. Allora dottore, iniziamo a dire che Simone, naturalmente il nome di fantasia, e la sua mamma stanno bene. Simone era affetto da una malattia cronica dei reni, che a un solo anno di vita lo aveva costretto alla dialisi, e quindi c'era la necessità di dargli un rene nuovo, ma la lista d'attesa è lunga, specie per i bambini, e da qui l'esigenza quindi di puntare su un donatore vivente e compatibile. La madre ha queste caratteristiche, ma c'è un problema di dimensioni: il suo rene è troppo grande per l'addome di un bambino così piccolo. Ma dottor Beretta, voi siete riusciti a superare anche questa difficoltà, ci racconti? Sì, cerchiamo di spiegare semplicemente, con termini molto semplici, quali sono le criticità che avevamo davanti da risolvere. Prima di tutto, come ha detto lei, le dimensioni del rene della mamma. C'era una discrepanza significativa tra Simone, che pesava 10 kg, e la mamma, che pesava 70 kg. Che significa questo? Anche discrepanza di dimensioni per il rene. Quindi un rene grosso da alloggiare in un addome veramente piccolo. La seconda criticità è che Simone è in dialisi peritoneale, cioè la dialisi che si fa attraverso un tubicino che fa entrare un liquido che depura l'organismo dalle scorie, e al momento del trapianto noi dovevamo risparmiare questa cavità peritoneale per mantenere eventualmente la necessità di proseguire questa dialisi peritoneale se il, nel caso l'intervento non avesse non avuto successo. Esatto, se il rene non riprendeva subito, immediatamente. Era evidente che la strada più semplice era quella di, come si fa abitualmente, introdurre il rene nel peritoneo, in questa cavità dove lo spazio è veramente molto più ampio. Però ci saremmo trovati nella difficoltà di non avere più disponibile questa metodica dialitica, perché purtroppo per Simone non c'erano veramente assolutamente altre possibilità alternative. Aveva avuto dei problemi in passato, quindi trombosi di vasi, e l'unica era continuare con questa se ce ne fosse stato bisogno. E infine l'ultima cosa era che dovevamo scegliere delle arterie e delle vene per collegare questo rene che fossero adeguate all'arteria, alla vena di un rene che era decisamente più grosso rispetto a quello che avremmo desiderato avere. Certo. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto di utilizzare la tecnica che abitualmente tutti usano per il trapianto nell'adulto, quindi un'incisione addominale laterale che permetteva di entrare in una loggia laterale dove lo spazio è sicuramente molto più contenuto e, come dire, obbligato, perché ci sono i muscoli, ci sono le strutture ossee del torace, del bacino, quindi è un'area rigida, non si può espandere. Sì. Che però ci permetteva in questo modo di risparmiare l'integrità del peritoneo per quel problema che dicevo prima. Allora, cosa abbiamo fatto per aumentare lo spazio? Abbiamo rimosso il rene nativo di Simone. Il rene era malato e non è più funzionante, così abbiamo creato uno spazio. Allora, se noi idealmente immaginassimo di dividere il rene in tre porzioni, la porzione superiore l'abbiamo inserita in questo spazio, quindi ci rimaneva i due terzi restanti del rene, che abbiamo fatto in modo di alloggiarli bene in questa fossa muscolare, spostando poi ulteriormente il peritoneo. Ce l'abbiamo fatta, faccelo fare. Ce l'avete fatta. Poi, come ultimo problema, era quello di trovare un'arteria e una vena che avessero una buona portata. Cioè, il rene grosso ha bisogno di una buona quantità di sangue che per lo raggiunga. Per essere irrorato, certo. Irrorato bene. Normalmente si utilizzano i vasi iliaci, che sono più periferici, però per Simone erano veramente molto molto piccoli, quindi immaginavamo che la portata non fosse sufficiente adeguata per lui. Avete trovato anche questa soluzione, perché il caso, come lei ce l'ha descritto, anche per noi che non siamo addetti ai lavori, si presenta molto complicato e complesso, ma questo poi l'intervento è stato eseguito con successo, e soprattutto riusciti. È una nuova, no? Questa nuova tecnica prospetta anche nuove possibilità per i piccoli pazienti in dialisi. Certo, si è aperta una strada, dottor Beretta. Sì, sicuramente, perché, come dire, in passato, ma sbagliando, noi eravamo più preoccupati quasi degli insuccessi, perché una delle grosse problematiche del trapianto pediatrico è l'insuccesso da trombosi. Sì. Con questo tenere però siamo riusciti ad avere un buon risultato e possiamo proporla anche a estendere questa disponibilità. Infatti quello che è già successo è che i nostri colleghi nefrologi con cui collaboriamo attivamente hanno già cominciato a proporre a tutte le famiglie dei piccolini che sono in dialisi in questo ospedale questa possibilità, cioè valutare in famiglia se c'è una disponibilità di un donatore compatibile. Quindi ecco, in questo modo si può attivare un progetto di trapianto rivolto anche a tutti i bambini che purtroppo in futuro dovranno avvicinarsi alla dialisi, con la speranza anche di, siccome il trapianto da vivente è organizzabile, di farli arrivare al trapianto senza passare dalla dialisi. E questo sarebbe veramente un grande passo avanti. Un passo avanti. Io immagino che nei prossimi anni ci dovremmo aspettare di vedere più trapianti da vivente, meno bambini costretti in dialisi, e come riscontro anche che per quelli che sono in dialisi da donatore deceduto, abbreviare le liste di attesa, perché shiftiamo un pochino di possibili candidabili al trapianto da vivente, così rendiamo più facile il trapianto da cadavere anche a questi piccolini che sono in lista. Dottor Beretto, un ascoltatore ci scrive su WhatsApp e ci scrive: il medico che sta parlando di Simone merita la massima stima e riconoscenza per quanto sta spiegando. Questo voglio leggerglielo subito. Tra l'altro, dottor Beretta, il trapianto è un intervento complesso e delicato che necessita di grande professionalità e competenza, direi dentro e fuori la sala operatoria. È un lavoro di squadra. Sì, noi ci teniamo un po' alla nostra esperienza, perché la chirurgia è anche esperienza, sono 40 anni che li facciamo, però noi ci teniamo sempre a dire che non si vince mai da isolati, cioè i buoni risultati vengono da una buona squadra, e in effetti Simone, l'esperienza di Simone viene proprio da questo. Noi abbiamo questa chiara convinzione. E abbiamo avuto i nostri nefrologi, gli anestesisti, i pediatrici, abbiamo gli psicologi, e poi abbiamo avuto una cosa molto bella, tanti volontari che hanno aiutato questo nell'associazione del bambino nefrotatico, che proprio ha accompagnato la famiglia. È giusto ricordare questo bel lavoro di squadra. Sì, che io poi, se posso dire, che in fondo anche quello che un po' succede in Italia, no? Parliamo sempre tanto male dell'Italia, ma in Italia abbiamo una buona esperienza di trapianti che è riconosciuta ad alti livelli di risultati, ma questo risulta come frutto di una rete trapiantologica che esiste in Italia. Tutti gli ospedali di trapianto sono collegati insieme, c'è un aspetto organizzativo, c'è l'aspetto dello scambio di organi tra centri, ma uno scambio anche di condivisione, e direi che questo su tutta l'Italia è un bel esempio di buona squadra. E vogliamo ricordarlo, dottor Beretta. Intanto io la ringrazio davvero per averci dedicato questo tempo. Noi adesso tra poco cambiamo testimone, ma rimaniamo al Policlinico, perché continueremo a parlare di malattie renali, facciamo un viaggio a ritroso, parleremo di prevenzione, perché secondo dati recenti sono 500 milioni le persone che nel mondo hanno qualche forma di danno renale. Sappiamo bene che le malattie renali possono essere ereditarie, congenite o anche però più spesso acquisite, e se sulle prime due, quelle ereditarie che dipendono dai geni, quelle congenite che sono già presenti alla nascita, possiamo fare poco, su quelle acquisite abbiamo un bel margine d'azione, e di questo parleremo con il professor Pier Giorgio Messa, che è direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia e dialisi all'ospedale maggiore policlinico di Milano, che è in linea con noi. Professor Messa, buongiorno, grazie. Buongiorno a voi. Quindi vi salutate a Radio 24, lei e il dottor Beretta, che lavorate insieme, così facciamo il cambio di testimone e rimaniamo a casa vostra praticamente. Benissimo, benissimo. Buongiorno, professor Messa. Ciao. Allora, grazie al dottor Beretta per essere stato con noi. Noi rapiamo il professor Messa fino alle 11:20 per parlare di prevenzione delle malattie renali. Dottor Beretta, grazie, complimenti vivissimi anche da parte dei nostri ascoltatori. Mi sembra che sia il vostro lavoro da sottolineare. Grazie, Deborah ed io siamo commossi e felici di avervi qua. Ci saluta naturalmente tutti i Simone di cui si sta prendendo cura in questo momento e delle loro famiglie. E noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico e tra poco il professor Pier Giorgio Messa insieme a noi. Cuore e denari. Siamo la coppia più bella. E a proposito di coppia, oggi ci occupiamo di reni, meno popolari del cuore, del fegato, ancora meno del cervello. I reni lavorano senza che noi ci curiamo di loro, no? Forse non sappiamo esattamente neppure dove si trovino, né che cosa facciano di preciso, e neppure quale sia l'esperto di riferimento. Sono organi di filtro, abbiamo sentito dire, ma cosa filtrano? Insomma, di loro abbiamo poche e confuse informazioni, e ci viene difficile anche per questo associare a loro la parola prevenzione. Del cuore ormai conosciamo i nemici, la stessa cosa potremmo dire del fegato e del cervello, di cui sono organi di cui riusciamo anche a cogliere e a riconoscere eventuali segnali di malessere. Ma dei nostri reni? Allora, oggi è una buona occasione per intervenire in diretta, ascoltare la puntata e soprattutto chiedere un consiglio, una spiegazione al nostro esperto, il professor Pier Giorgio Messa, Massa, direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia e dialisi all'ospedale maggiore policlinico di Milano. Ribuongiorno, professore. Ribuongiorno anche a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, professore, per sensibilizzare l'attenzione nei confronti di questa bella coppia, potremmo, se lei è d'accordo, lavorare su due fronti. Il primo, definire il profilo della persona a rischio, mentre il secondo, utilizzare un indicatore che funziona come una specie di cartina tornasole, no? Dello stato di salute e funzionamento dei nostri reni. È d'accordo? Esatto. Prendiamo questi due filoni? Assolutamente sì, io direi, giusto per ricordare un po' cosa fanno questi nostri due fantastici piccoli organi, perché sono relativamente piccoli ma estremamente laboriosi e silenziosi. Questi depurano il nostro sangue quotidianamente, ogni minuto della nostra vita, togliendo fuori tutti i tossici che noi produciamo o che noi introduciamo e fondamentalmente mantenendo il nostro bilancio di acqua e di sali. Questo lo fanno in estremo silenzio e poi ne parleremo magari dopo di questo aspetto. È chiaro che quindi come organi di filtro, se vogliamo, del nostro organismo, di cosa risentono? Risentono di condizioni che noi stessi possiamo indurre, innanzitutto facendoli lavorare di più. E quando li facciamo lavorare di più? Certamente un soggetto obeso è un soggetto che fa lavorare molto di più i suoi reni, un soggetto che fuma è un soggetto che mette a repentaglio. Noi sappiamo molto del fumo come effetto di tossicità sui polmoni, sul cuore. Lei prima ha giustamente in qualche modo ricordato di come siamo molto molto consapevoli di questi delle problematiche, dei fattori di rischio su altri organi, ma molto poco su quello dei reni. Ma il fumo è uno degli elementi più dannosi anche per i nostri reni, o comunque come per esempio una serie di tossici che noi possiamo introdurre volutamente quando evidentemente introduciamo per esempio antibiotici o analgesici, cioè farmaci contro il dolore o altro, o comunque quando introduciamo farmaci senza che ci sia una chiara indicazione e prescrizione medica. E poi ovviamente tutti i pazienti che hanno un diabete, che hanno una pressione alta, hanno dei reni sicuramente molto a più rischio. Consideriamo anche un'altra cosa estremamente importante, che essendo i nostri reni dei filtri naturali, più la vita media si allunga e si prolunga, più questi nostri organi fantastici, ma pur limitati nella loro funzione, a un certo punto hanno più probabilità di andare in crisi. Quindi il messaggio è fondamentalmente, se vogliamo che durino più a lungo possibile, visto che tutti vogliamo e vorremmo durare nella nostra vita più a lungo possibile, dobbiamo in qualche modo pensare sin dall'inizio a risparmiarli, proprio con stili di vita che evitino gli aumenti eccessivi di peso, ovviamente attenzione ai cibi e agli alimenti che mangiamo, evitiamo il fumo, controlliamo la nostra pressione e ovviamente se ci sono alterazioni metaboliche di qualunque genere, se siano il diabete è sicuramente la più frequente ma non è l'unica, interveniamo possibilmente con correttivi dietetici e comportamentali per ridurre al minimo questi rischi che mettono i nostri filtri prima o poi in condizioni di crisi. Se nel profilo tratteggiato dal professor Messa vi siete sentiti un po' toccati, chiamati all'appello 800 24 00 24. Oggi facciamo un'informazione precisa e puntuale su questa coppia che possiamo paragonare un po' a dei registri, no, della nostra salute. Professor Messa, veniamo un po' agli indicatori. I reni producono l'urina e quindi verrebbe intuitivo considerarlo un po' come la cartina tornasole del loro stato di salute, della loro attività. Chi lavora di solito sta bene, no? Allora, le urine possono darci alcune indicazioni importanti. Quali sono i segnali che dobbiamo considerare, non per fare un'autodiagnosi, ma per saperli, no? conoscere l'importanza e nel caso riferire al nostro medico? Ecco, quello che voglio incominciare a dire non deve evidentemente terrorizzare chiunque ci stia ascoltando in questo momento, nel senso che molti dei sintomi che io elencherò, che sono alcuni di questi abbastanza comuni e banali, non necessariamente indicano una patologia renale, però potrebbero esserlo. Per esempio, quando uno pensa alla funzione renale e quindi alla produzione di urine, pensa che in generale sia far poca pipì, fare poche urine, che in qualche modo identifichi una malattia renale. Questo non è sempre vero, anzi molto spesso, in particolare nelle malattie renali croniche, il primo sintomo è quello di avere una quantità di urine lievemente aumentata, specialmente nelle ore notturne, quella che viene chiamata in termini tecnici nicturia, cioè l'urinazione di notte. Con questo, ripeto, non vuol dire che avere un'urinazione notturna sia necessariamente un indicatore di una malattia renale cronica, ma potrebbe anche esserlo. Quindi, mi scusi, professor Messa, sì. Cosa significa alzarsi 2 o 3 volte a fare pipì di notte? Di sì, più, potrebbe, di meno? Cosa? Di più. Perché potrebbe, poi ci sono... Sì, di più. Sì, di più perché i nostri reni che concentrano le urine, una delle prime loro funzioni che vengono a perdere quando funzionano un po' di meno è la capacità di concentrare le urine. Questo è un sintomo molto comune che non necessariamente, ripeto, indica una riduzione della funzione renale, ma che quantomeno deve spingerci, se comparso man mano nel tempo, a fare quei pochissimi esami di cui poi diremo dopo, certo, sicuramente, e che basteranno a metterci tranquilli. Un altro aspetto è se dovessimo vedere ovviamente delle urine che diventano molto più schiumose di quanto non eravamo abituati a vedere prima, una schiuma specialmente che persiste anche dopo un po' che l'urina è stata emessa. Anche questo potrebbe essere un indicatore indiretto di una variazione qualitativa delle nostre urine, magari per la presenza di un po' di proteine nelle urine. Le proteine non dovrebbero essere presenti nelle urine, se sono presenti indicano e sono indicatori indiretti di una condizione non perfettamente normale dei nostri reni che merita evidentemente una maggiore attenzione. Ovviamente non sto a dire, ma questo generalmente viene valutato subito da qualsiasi di noi, una modificazione del colorito delle urine più scure, magari se non come la Coca-Cola, ma sicuramente più marron, più colorate, oppure delle urine che hanno una particolare torbidità o comunque anche degli odori non usuali, un po' in qualche modo disturbanti. Tutto questo deve portarci a fare quei banalissimi esami, e questo è per quanto riguarda le caratteristiche delle urine. Due altri sintomi che spesso non vengono valutati sufficientemente importanti in funzione dei reni sono quello di trovarsi magari le gambe più gonfie rispetto al passato, gli occhi più gonfi al mattino al risveglio, oppure quello di trovarsi una pressione più alta, specialmente in soggetti che non hanno una familiarità ipertensiva, cioè non hanno altri componenti della famiglia con pressione elevata, oppure in età relativamente giovani, in cui in generale non ci si attende di avere una pressione più alta. Anche queste due condizioni devono spingere a svolgere quei piccolissimi, banali esami di cui diremo tra di cui parleremo subito dopo il nostro GR. Risponderemo anche agli ascoltatori come Paolo che ci scrivono, ma professor Messa ci torniamo subito dopo il GR, sì. Se una dieta proteica può anche se eseguita solamente per una decina di giorni, può danneggiare i reni. Adesso linea al GR 800 24 00 24. Noi torniamo subito dopo insieme con il professor Messa. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cuore e denari. Allora, siamo tornati insieme. Oggi, come anticipato, ci stiamo occupando dei reni, una coppia molto importante per la nostra salute, e l'occasione, come sempre, ci è data dall'attualità. E in questo caso dal successo ottenuto dagli esperti della Fondazione Cagranda Policlinico di Milano, che hanno trapiantato il rene della mamma al suo piccolo di 3 anni per curare una grave malattia. Da qui siamo partiti per parlare di reni. Lavorano anche in condizioni critiche, fanno i salti mortali per continuare a fare il loro dovere, ma questo per noi è un rischio, perché non ricevendo chiari segnali di fatica o di sofferenza, l'idea che i reni possono avere dei problemi non ci sfiora neanche, se non quando a distanza di anni i due non ce la fanno più, ci presentano il conto che a volte può essere molto salato. Quindi meglio non stressarli troppo e prestare un po' di attenzione. Ne stiamo parlando con il professor Pier Giorgio Messa, che è ancora in linea con noi. Professore, grazie. Grazie a voi. Che ha tratteggiato un po' un profilo di rischio della persona, dell'identikit della persona che dovrebbe insomma un po' rizzare le antenne, e soprattutto ci ha dato alcuni dei segnali che dobbiamo imparare a riconoscere e a riferire al nostro medico, che riguardano un po', che riguardano l'urina, che abbiamo detto che potrebbe essere considerato un po' la cartina tornasole della funzionalità e della salute dei nostri reni. Professore, io ho tantissime domande e vorrei dare lo spazio ai nostri ascoltatori, da cui lei prenderà spunto per dare delle. Innanzitutto abbiamo ancora, no, in prima del GR, la domanda del nostro ascoltatore, sì, che chiede se una dieta proteica, e e quindi dice solo proteine, che fa per 8-10 giorni, può provocare dei problemi ai reni, nonostante lui scriva bevo anche molto acqua, quasi a compensare, beve 3 litri di acqua al giorno. Anche qui si pensa che più si beva più i reni siano felici, forse anche questa è un'informazione che richiede un po' di puntualizzazioni. Esatto, allora molto rapidamente, le proteine, specialmente animali, se prese in grandi quantità ma per lunghi periodi, possono a lungo andare a creare problemi ai reni, non per brevi periodi, quindi nessuna guerra contro le proteine animali, ma limitarne ovviamente il consumo e per periodi di tempo brevi evitare gli alti consumi. Sull'acqua, l'acqua è meglio berne quanto ne abbiamo bisogno, sono poche le patologie renali nelle quali noi nefrologi consigliamo, e anche gli urologi, di aumentare l'assunzione di acqua, specialmente nella calcolosi, ma bisogna stare attenti, in alcune malattie renali bisogna consumarne di meno quando i reni hanno difficoltà ad eliminare il carico di acqua. In generale però la quantità d'acqua che deve essere assunta è quella di un litro e mezzo al giorno. Professore, denominatore comune della maggior parte delle malattie renali è la progressione. In pratica il rene che ha subito un danno perde progressivamente la sua funzione, sino a che si deve intervenire con la dialisi, che è una terapia che sostituisce parzialmente la funzionalità renale e che si esegue quando i reni non sono più in grado di lavorare normalmente. Oggi questa progressione si può arrestare o rallentare, ma a condizione che si intercetti rapidamente il problema. Insomma, la tempestività, professor Messi, cambierebbe la storia di molte persone? Sì, direi proprio di sì. Più e anche un po' la salute del nostro sistema sanitario, direi. Probabilmente questa seconda, insieme alla prima delle condizioni, è una possibilità che noi potremmo esplorare soltanto se molto precocemente riusciamo a fare diagnosi di una compromissione renale con due banali esami. L'esame delle urine, innanzitutto, un banale esame delle urine che ci dice se nel nostro apparato urinario, nelle urine, scompaiono globuli rossi, globuli bianchi, i cosiddetti cilindri, oppure ci siano delle proteine nelle urine, e poi la creatinina nel sangue, un esame del sangue che ci indica il livello di una sostanza che è eliminata dai reni e che nel momento in cui i reni cominciano a funzionare di meno sale fatalmente nel nostro sangue. Con questi due banali esami abbiamo coperto una grossa quota di potenziali diagnostiche sulle malattie renali e possiamo essere molto precoci. Se siamo precoci noi nefrologi possiamo anche guarire alcune forme di queste malattie e sicuramente rallentarne l'evoluzione, perché nella fase terminale poi si va a finire, come ricordava lei, purtroppo a dover sostituire la funzione con la dialisi, ma anche, non dimentichiamoci, col trapianto. L'abbiamo sentito questa mattina, vale per il bambino ma vale anche ancor più per l'adulto, pensiamo anche al trapianto. Questo è un messaggio da mandare ai medici di medicina generale e a tutti, anche noi nefrologi, pensiamo al trapianto come la prima delle soluzioni quando i nostri reni funzionano meno, anche per evitare, se possibile, di entrare in dialisi. Abbiamo Marcello, ci chiama da Modena all'800240024. Buongiorno Marcello, benvenuto. Benvenuto. Buongiorno a tutti, complimenti per avermi richiamato. Io volevo fare una domanda al professore. Prima ha parlato di proteine nel sangue come di un dato non positivo. Chi si allena molto, se fa esame delle urine, proteine nelle urine, volevo sì, dire. Sì, sì, abbiamo capito che era un refuso. Per questo non l'abbiamo corretto, sapevamo che lei era attento, Marcello. Vada. No, più che altro mi interessa molto perché chi si allena molto ha sempre la presenza di proteine nel sangue, tant'è che quando dobbiamo fare le visite di idoneità dobbiamo interrompere l'attività un paio di giorni prima. Ecco, allora qua è lo sportivo che parla, professor Messa, e Marcello rappresenta veramente tantissimi ascoltatori che ci hanno mandato la richiesta via SMS o anche al telefono, e quindi un'indicazione per Marcello. Allora, l'indicazione è molto semplice, sicuramente le proteine che ci devono preoccupare sono quelle che vengono riscontrate in una condizione di riposo nelle urine e ovviamente poi bisogna vedere in che quantità vengono ad essere eliminate. In generale una piccola quota di proteine nelle urine, come giustamente ricordava l'ascoltatore, può comparire dopo uno sforzo, specialmente se uno sforzo molto intenso, quindi è giusto evitare di fare una diagnosi sulla base di un esame delle urine fatto immediatamente dopo uno sforzo e quindi in quel caso ripeterlo ad una certa distanza di tempo, anche di un giorno o due può essere più che sufficiente a vedere le urine ritornare normali nel loro contenuto di proteine. Andiamo da Marco da Rovigo, buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno a voi, volevo chiedere, ma io ho una cista sul rene destro, controllata eccetera. Può stare tranquillo, ci chiede Marco, cisti renali non possono, non compromettono la funzione del rene, allora, professore? No, assolutamente, le cisti singole, anche in poche numericamente presenti, sono un reperto molto frequente dopo una certa età, dopo i 50-60 anni è abbastanza frequente trovare una o più cisti. In generale se l'ecografia viene fatta correttamente tranquillizza sulla tipologia della cisti, da controllare magari ogni 2-3 anni con un'ecografia, ma non deve assolutamente preoccupare né per la funzione né per altro. Quindi possiamo concludere questa prima parte di Cuore Denari portandoci a casa questo messaggio che educazione, diagnosi precoce e uno stile di vita sano ci aiutano a contrastare l'aumento delle malattie renali, che tra l'altro è anche il messaggio della Giornata Mondiale dei Reni che si celebrerà il prossimo 10 marzo. Professor Messa, torni presto a trovarci, noi intanto cercheremo di fare tesoro dei suoi consigli. Volevo chiederle solo un ultimo consiglio per Carmen che ci chiede a proposito dei farmaci, chi... Sì. È costretta ad usare farmaci, Carmen scrive, pesanti per i reni. Come può aiutare la coppia a stare il meno male possibile? Allora, è evidente che in questo caso sì, bevendo di più si può ridurre l'effetto nocivo di questi farmaci e ovviamente esperendo tutte le possibilità alternative di terapie fisioterapiche nel caso di farmaci che sono dati per dolori articolari o ossei, come spesso succede, o di altre tipologie di terapie che non siano invasive per i reni. Però è evidente che so benissimo che purtroppo molte di queste volte, di queste terapie, purtroppo non possono essere evitati da molti pazienti. Limitarne l'uso, ridurne l'uso e non fumare, tenere il peso sotto controllo, questo aiuta sia chi è in terapia sia chi invece non deve assumere farmaci. Quelli che non lo hanno, questi problemi. Professore, grazie e ancora grazie, complimenti per la vostra straordinaria equipe. Mandiamo grazie questo messaggio di attenzione a questi problemi, perché penso che la medicina abbia bisogno dell'attenzione a questi aspetti che in qualche modo ci rappacificano anche fra di noi, vero? Certo, grazie professore, una buona giornata. Buona giornata anche dalla parte di Denari che adesso si impossessa del microfono e allora adesso riprendiamo a parlare del tema mercati finanziari. Parlarne, come dire, ci rende un po' meno ansiosi in questi giorni di quanto non ci sia accaduto a gennaio e in gran parte di febbraio. Come abbiamo detto anche la scorsa settimana però, lo scenario di fondo non è che sia cambiato, rimane la crisi cinese, rimane la paura per la situazione delle banche europee. Ci sono naturalmente delle preoccupazioni per le regole nuove sui fallimenti bancari, il cosiddetto bail-in. C'è ancora il prezzo del petrolio che si è un po' stabilizzato in questi giorni, ma è tuttavia ancora estremamente basso. C'è la questione Brexit che si è in maniera dirompente aperta. Ci sono le turbulenze sui mercati emergenti, le aspettative per le iniziative delle banche centrali, ma forse la caduta dirompente delle prime settimane del 2016 si sta prendendo una pausa e sta probabilmente un po' la comunità degli operatori finanziari ed economici ragionando se ci sia stata qualche forma di esagerazione o meno. Allora, dobbiamo stare tranquilli o in realtà in questi giorni stiamo, come dire, vivendo una quiete prima di un'altra tempesta? Chissà se riusciremo a scoprirlo oggi nel nostro appuntamento del giovedì, che sapete bene quale sia. Investire informati. Ben ritrovata Vittorio Gaudio, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno. Oh, ascoltatori che naturalmente possono continuare, come hanno fatto per la prima parte del nostro programma, a comporre il numero verde 800 24 00 24. Potrete esprimere, se volete, le vostre considerazioni sugli scenari finanziari che stiamo vivendo, quelli a cui andiamo incontro, e se volete anche confrontarvi con noi sulle vostre preoccupazioni finanziarie e sui fatti del momento che non vi sono chiari. Allora, dottor Gaudio, la prima domanda mi sembra d'obbligo, peraltro guarderei cosa succede oggi, situazione di stabilità sui mercati, Milano più 0,14%, quindi si stanno un po' consolidando i rialzi recenti, stanno recuperando di nuovo i titoli bancari che su Milano sono sempre i grandi protagonisti delle sedute. Le chiedo un primo commento flash sul recupero dei mercati di queste ultime giornate. È vero che è la stagione giusta per dirlo, una rondine non fa primavera, ci siamo vicini, ma stiamo vedendo qualche segnale di inversione di tendenza, oppure, dottor Gaudio, avete la sensazione che il recupero di questi giorni sarà momentaneo e non ha segni di stabilità? Quali temi nuovi, quali sono i nuovi punti di osservazione che possiamo proporre stamattina ai nostri ascoltatori? Ma io direi che tutti gli elementi di criticità che lei ha sollevato all'inizio ci sono, quindi non è che sono scomparsi da un giorno all'altro, però ecco, forse tra gli operatori, come lei accennava, si è diffusa una sensazione che alcuni dei cali dei giorni iniziali dell'anno fossero esagerati, quindi non siamo in prossimità di una grande recessione modello 2008, siamo probabilmente in una fase ciclica normale, congiunturale di rallentamento, quindi questo è, diciamo, un aspetto positivo della situazione che stiamo vedendo, anche se vogliamo il crollo del prezzo del petrolio che abbiamo visto essere stato molto profondo, si è rimarginato e questo sicuramente ha dato un segnale di stabilizzazione e tranquillità. Le possibilità di diversificazione del rischio in questo momento non mancano certo, però è certamente diventato anche particolarmente arduo fare una scelta di diversificazione che appunto ci faccia puntare su asset che si compensano. Generalmente la diversificazione è proprio questo, no? Cercare di intercettare un settore che potenzialmente può crescere per compensare invece l'andamento di quell'asset che scende. Non so, un invest sul titolo di Stato che in questo momento ha rendimenti zero per dare un po' di stabilità magari al portafoglio, e contestualmente una parte del portafoglio appunto la mette anche sul mercato azionario che potrebbe crescere. La logica della diversificazione dovrebbe essere questa: con tutti i mercati che scendono appunto da qualche tempo a questa parte, operare in questa logica è diventato per voi, dottor Gaudio, molto difficile, per voi investitori professionali così come per il piccolo risparmiatore che continua a fare un po' un errore in Italia, concentrare il suo rischio, il portafoglio. Esatto. Allora, ci dia un po' il punto della situazione su questo problema. In questo momento poi ritorneremo sui mercati finanziari ad analizzare i temi del momento, ma siccome questo è un tema molto caldo, anche Plus 24 del Sole 24 Ore fa delle grandi battaglie e sembra quasi sempre una scommessa persa con l'investitore italiano, no? Oggi come siamo messi? Io direi, guardi, nelle fasi di crisi c'è sempre una messa in discussione del concetto di diversificazione, perché molto spesso i risparmiatori dicono: voi ci raccontate positivamente questo concetto, poi quando ci sono le crisi tutti i mercati scendono in maniera abbastanza uniforme, quindi dov'è il vantaggio della diversificazione? Il vantaggio non va visto in queste fasi temporanee, va visto, diciamo, sul lungo periodo, e ricordiamoci che poi l'alternativa qual è? Se parliamo di concentrazione tipica che c'è nei portafogli degli italiani, che è il titolo di Stato piuttosto che il titolo bancario, beh, ricordiamoci che il primo rende pochissimo. Il secondo, anche in prossimità di bail-in, situazioni di questo tipo, ha dato anche, diciamo, delle delusioni profonde ad alcuni risparmiatori. Quindi sicuramente la diversificazione può essere messa in discussione temporaneamente in queste fasi di crisi, però ricordiamoci che nel medio-lungo periodo vale assolutamente. E poi, i beni rifugio quali sono? Io ho letto anche tante considerazioni in questi giorni, andiamo sull'oro, a comprare l'oro, che è ritornato, ecco, ad essere un po' scoppiettante, per carità ancora di lì. Dio, ecco, stiamo parlando di un asset class, come si usa gergalmente dire, che non rende niente, quindi che è veramente speculativa. Se l'alternativa sono i titoli di Stato tedeschi, rendono negativi quasi fino a 10 anni, quindi credo che veramente la diversificazione, soprattutto su asset class più evolute come l'azionario, anche come l'obbligazione ad alto rendimento, abbia assolutamente senso. In questo momento esiste, secondo voi, una tendenza alla concentrazione fatta su un asset particolare da parte degli italiani? Qual è? Beh, gli italiani stanno iniziando a capire, devo dire, questo fenomeno dei titoli di Stato che rendono pochissimo, il fenomeno che si è diffuso, a ragione o torto, del bail-in che vada a colpire anche i depositi e i conti correnti, certamente sta inducendo una riflessione profonda presso i risparmiatori. È chiaro che la tendenza è ancora un po' quella del bot people, ecco, quindi avere uno o due titoli in portafoglio e nulla di più. E io credo che comunque siano dei segnali molto incoraggianti in questa direzione, noi li stiamo vedendo. Allora, intanto invito i nostri ascoltatori, se hanno voglia per un attimo, di fare un piccolo check-up mentale del loro portafoglio, del loro risparmio, appunto qual è la logica della diversificazione che avete seguito, che avete magari condiviso con il vostro consulente, oppure siccome qualche volta qualcuno contesta anche il fatto che una eccessiva diversificazione e polverizzazione in realtà è costosa per portafogli che non sono naturalmente enormi e che hanno ovviamente tutto il merito di essere pienamente rispettati anche dalle nostre considerazioni, allora magari ecco la vostra concentrazione vi ha portato a fare che tipo di scelte? Le vorreste cambiare? Insomma, dateci la vostra visione su questo tema all'800 24 00 24. Torniamo, dottor Gaudio, ai temi economico-finanziari. Lo scorso fine settimana c'è stato il G20 di Shanghai. Per chi non lo sapesse, il G20 è l'organizzazione internazionale, il forum internazionale dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali, che periodicamente appunto si riunisce per stabilire strategie di azione comuni alla luce di come appunto lo scenario di riferimento finanziario sta andando. G20 dello scorso fine settimana si è svolto a Shanghai, ci sono stati due punti centrali particolarmente importanti emersi da questa riunione. È stato detto che la ripresa dell'economia globale è continua ma è ancora irregolare, lontana dall'essere forte, sostenibile ed equilibrata. È stato detto che la volatilità dei mercati non riflette i fondamentali dell'economia reale e sono aumentati i rischi e vulnerabilità. E poi naturalmente una bella parte della riflessione è stata fatta sulla Brexit. Naturalmente la Gran Bretagna deciderà se uscire dall'Unione Europea con il referendum del 23 giugno, ma intanto questa discussione è bastata a far scivolare la sterlina ai minimi da 7 anni sul dollaro. Allora, da quale delle due considerazioni vuole partire? Ma vede, io credo che i mercati molto spesso vorrebbero un mondo che non esiste, ovvero un mondo che non cresce troppo, che non cresce troppo poco, dove l'inflazione non sia troppo bassa ma non sia troppo alta. Beh, questa situazione non esiste. Quindi noi siamo certamente, come dicevano appunto al G20, in una situazione globale di crescita moderata, quindi non siamo ancora tornati ai livelli, al ritmo di crescita pre-crisi finanziaria, soprattutto in alcuni paesi. Dobbiamo probabilmente abituarci a un ritmo di crescita storico leggermente più basso delle medie di lunghissimo periodo. Questo Fondo Monetario Internazionale l'ha detto più volte, l'OCSE lo stesso, però stiamo parlando comunque di crescita. Ecco perché poi bisogna distinguere tra una crescita che non è ancora esplosiva e il timore di recessione. Queste sono veramente due situazioni profondamente, profondamente diverse. Quindi, come diceva molto bene Warren Buffett, sapete che questo guru della finanza tiene proprio in questi giorni l'appuntamento con gli azionisti della sua holding, di Berkshire Hathaway. E lui ha detto una cosa, secondo me, molto sensata, forse l'età lo aiuta. Ha detto che attenzione, che una crescita del 2%, come si paventa secondo alcuni negli Stati Uniti, è comunque una buona crescita. Su 25 anni un 2% all'anno vuol dire, tenendo conto anche della crescita demografica, un incremento del 35% del PIL pro capite, certo, in 25 anni. Non avere anche delle crescite tumultuose che poi si fanno non fatica ad inseguire, esattamente come è successo, certo, in Cina, che poi addirittura paradossalmente, insomma, esatto, si deve crea dei problemi, rallentare. Allora, intanto vedo anche alcuni ascoltatori che ci stanno. Mi monitori WhatsApp, gentilmente, che tu, grazie, ce l'hai dall'altra parte. Allora, Leo da Firenze ci scrive: investire adesso, dottor Gaudio. Allora, chiaramente noi facciamo un commento su quello che ci dite e giudichiamo il vostro portafoglio di investimento. Chiaramente è un giudizio che può essere solamente parziale e anche superficiale se non conosciamo a che cosa vi serve questo denaro, quali sono i vostri obiettivi di vita finanziari, quelli vostri e quelli della vostra famiglia. Fatta questa premessa, poi chiaramente possiamo commentare le scelte che fate, come dicevo, come quella che fa Leo da Firenze, che ci scrive: investire adesso, dottor Gaudio, prenda appunti, in un fondo bilanciato Europa 75% obbligazionario e 15% azionario, va bene, o i valori adesso delle obbligazioni sono troppo alti? è un bilanciato un po' sbilanciato sull'obbligazionario? Beh, certamente è il classico bilanciato moderato, quindi con una componente obbligazionaria molto forte. Bisognerebbe anche conoscere che tipo di obbligazioni vengono inserite, perché all'interno del mondo obbligazionario, come noto ai risparmiatori, ci sono diverse famiglie. Un conto parlare di obbligazioni intese come titoli Stato tedeschi, che rendono niente, l'abbiamo detto, è molto diverso parlare invece ad esempio di obbligazioni societarie, anche di qualità, che hanno comunque dei rendimenti interessanti e che quindi possono essere composti in maniera efficace all'interno di un portafoglio. Quindi questa è un'informazione che il nostro ascoltatore dovrebbe conoscere, e se non la conosce, ecco, è opportuno che entri in maggiore dettaglio su questa proposta di portafoglio. Sa, il problema dell'investire ora è già mal posta un po' la domanda, se mi è consentito, nel senso che dipende molto dagli obiettivi finanziari del cliente. Io credo che se una persona ha degli obiettivi di medio-lungo termine è perfetto investire anche ora. Ecco, c'è stato comunque un calo dei mercati sufficiente per aver ricreato un valore importante. Quindi io credo bene, credo assolutamente bene. È chiaro che non stiamo parlando di trading o cercare di guadagnare il giorno dopo, ecco. Però se abbiamo un'ottica sufficientemente lunga, secondo me è un momento eccellente per investire. Invece io adesso mi devo prendere una pausa anche per dedicarmi ai trader che guardano in una logica quotidiana come vanno borse e titoli. Peraltro, Nicoletta, c'è anche Luciano da Varese che vorrebbe sapere qualcosa su un titolo che per ovvie ragioni a noi piace molto, che è Ferragamo, ma non per come va in borsa, per altri motivi non si può fare pubblicità così, no. Occulta. No, facciamola elegante. Siamo alle borse, alle scarpe, d'altronde, noi siamo femmine. Siamo sempre femmine. La borsa adesso, tra poco. Cuore e denari. Chris, thank you very much, I appreciate it. This has been an amazing evening. Already we've won 5 major states and it looks like we could win 6 or 7 or 8. Mi stanno guardando, Nicoletta, il dottor Gaudio con una faccia come dire: ma chi è questo qua? Donald Trump. Abbiamo preso uno dei suoi interventi in Good Morning America. Non era in realtà l'intervento che cercavamo. Qui commenta il risultato del Super Tuesday, del Super Martedì, che l'ha visto affermarsi ormai come più probabile sfidante repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti. Massacrerà per tutto l'anno Hillary Clinton con delle campagne denigratorie, stamattina anche riportate da Repubblica, di cui parlavamo poco fa. Allora, Donald Trump, perché abbiamo preso questo brano? Perché non è nuova, dichiarazioni shock ad affermazioni forti. Nei giorni scorsi il miliardario in corsa alla Casa Bianca ha messo in dubbio la salute economica degli Stati Uniti. Ha dichiarato che l'economia americana è in bolla speculativa pronta a scoppiare e ha anche aggiunto: se io dovessi mai essere eletto alla Casa Bianca, non ho nessuna intenzione di affrontare un crollo finanziario. Vabbè, non è che decide lui le priorità, certo, che deve affrontare. È un, certo, no? Un bel sarebbe, tipo. È proprio un bel tipo. Di certo sta rendendo molto divertente la campagna elettorale americana. Però, dottor Gaudio, a parte le considerazioni a cui spesso si lascia andare Trump, no? Qualche preoccupazione per l'economia americana, a volte c'è ed è tornata a galla proprio negli ultimi giorni. Lei come la vede adesso la locomotiva mondiale? Beh, certamente, guardi, il problema è sostanzialmente una crescita globale che, come dicevo prima, è strutturalmente più bassa di prima. Perché? Perché abbiamo una produttività che non riesce a partire ancora ai livelli precedenti alla crisi finanziaria, politiche monetarie che per ora hanno dato senz'altro risultati. Però si comincia a capire che più di tanto da queste politiche monetarie non si può tirare fuori. Ecco, adesso avremo anche gli annunci e le decisioni, speriamo importanti, di Draghi tra una settimana. Esatto. Però è chiaro che queste politiche monetarie più di tanto non riescono a trarre. Bisogna probabilmente tornare a politiche fiscali, e sarà interessante vedere se Trump, che finora si è dichiarato pochissimo in termini di politiche economiche, perché ha parlato di immigrazione, di messicani, il fatto di non far entrare i musulmani negli Stati Uniti, però ha cavalcato altri argomenti, argomenti di tipo populistico, quindi ha parlato molto poco di economia. In questo si capisce che ad esempio Hillary Clinton sia molto più amata da Wall Street, non solo per una sua vicinanza, una sua prossimità negli anni. Qualcuno dice anche una compromissione, un po', però un po' anche esagerata. Perché è stata più chiara e più decisa su quelle che possono essere le politiche economiche del nuovo presidente. Io credo che diciamo l'incertezza sulla carica presidenziale negli Stati Uniti pian piano sui mercati entrerà. Bisognerà capire effettivamente se ci fosse una nomination forte di Donald Trump e i sondaggi dovessero andare a suo favore, è chiaro che prima o poi ci si dovrà interrogare che cosa questo signore vorrà fare per la politica economica americana. Questo è determinante. Io credo che comunque, ripeto, non ci sono rischi recessivi sull'economia americana. Abbiamo visto anche gli ultimissimi dati però di questi giorni discreti. Però la Fed Reserve è più prudente sì, nelle più sue prudente, ma, decisioni. Vede, la Fed si è messa, secondo me, un po' in un culo di sacco, che non è una brutta parola, ma è semplicemente... Una traduzione dal francese. Esattamente, cul de sac, che vuol dire semplicemente essersi messa in una situazione da cui... può sbagliare in qualsiasi decisione prenda, perché a questo punto se alza i tassi il mercato si spaventa, se non li alza perché c'è il timore di recessione il mercato si spaventa, e quindi vede che sarà veramente un fine tuning, quindi un qualche cosa di molto delicato da decidere da parte dei governatori americani, della banca centrale. Stessa situazione abbastanza complessa ce l'ha anche Mario Draghi, se mi consente un commento. Esatto, anche lui nel cul de sac. Culo di sac. Poi ti dico come la pensa il nostro Sebastiano Barisoni sul cul de sac, poi ve lo racconto. Esatto. Sì, c'è una teoria che ogni tanto racconta. E quindi tra una settimana sarà interessante vedere cosa decidono. Allora, 10 marzo infatti, grande attesa per questo direttivo di Francoforte della Banca Centrale Europea. Ormai lui si è lanciato in qualche anticipazione su nuove iniziative di stimolo monetario da parte della Banca Centrale Europea, forse un rafforzamento del quantitative easing, forse ancora più sotto zero i depositi bancari presso la Banca Centrale Europea, e questo proprio per stimolare le banche a non mettere il loro denaro a Francoforte ma darlo all'economia reale. Io banalizzo sempre molto i nostri concetti per farli capire appunto ai nostri ascoltatori, ma vedremo se c'è questo nella testa di Draghi o meno. Detto questo, 800 24 00 24, state attenti perché io fra un po' sono pronta con il domandone. Oggi non è una domanda secca, ma vi farò elaborare un concetto un po' più complicato. Ne abbiamo parlato all'inizio del programma, ma non è nulla di complicato. Per cui per gli appassionati di gestione del proprio risparmio in maniera attiva, in realtà speriamo appunto di poterli così divertire anche un po' con la scelta che abbiamo fatto oggi con il nostro domandone, sentirei invece i nostri ascoltatori. Dottor Gaudio, pronti per lei? Davide da Genova, benvenuto. Sì, buongiorno, salve. Buongiorno Davide. Io volevo dire che ultimamente mi sto trovando bene a operare con dei fondi long short, in parte, che permettono, diciamo, di essere decorrelati dal mercato, e anche quando tutte le asset class, come negli ultimi 3 mesi, sono scese parecchio, alcuni di questi fondi di investimento hanno portato dei risultati abbastanza. Che cosa è stato? Perché a noi ci è sembrato invece che fosse tutto molto correlato, Davide, quindi se può mettere in condivisione con la sua esperienza, che cosa ha trovato di decorrelato che le ha dato soddisfazione? Sono degli strumenti appunto long short, dei fondi che investono su determinati settori e al tempo stesso li privilegiano magari rispetto a tutto l'indice di borsa. Scommettendo sul fatto che magari il settore tecnologico può andare meglio dell'indice di borsa in generale, sono riusciti ad avere dei risultati positivi. Certo, però Davide, non sono, immagino, come dire, strumenti di investimento con i quali operare in una logica di medio-lungo periodo. Ma negli ultimi 3 anni i risultati sono stati a doppia cifra, quindi per cui è chiaro che deve essere una parte marginale del portafoglio. Eccolo là. Non lo so, può essere un 20%. Per cui quello magari con una bella fetta di liquidità, una fetta di obbligazionario diversificato, magari anche alcuni fondi obbligazionari indicizzati all'inflazione, perché adesso comunque le banche centrali cercano tutte di portare alla crescita dell'inflazione, quindi alcuni titoli indicizzati all'inflazione adesso sono penalizzati, forse si riescono a comprare a prezzi discreti, certo. Penso che quello possa essere... Davide, grazie, promosso a pieni voti da bravissimo, Vittorio Gaudio. Bravissimo. Allora, no, tra l'altro il tema del fondo indicizzato all'inflazione, siamo in condizioni di quasi deflazione, peraltro proprio questa, come la spina nel fianco di Draghi, certo. In base alla quale prenderà delle scelte settimana prossima, prenderà delle decisioni settimana prossima. Allora, intanto questa prima parte di considerazione fatta da Davide, una scelta su questi fondi particolari decorrelati al mercato. Beh, i fondi long short stanno avendo certamente un discreto successo commerciale. Una traduzione in Italia. Italiana non esiste di questo Beh, fondo. Beh, non esiste, nel senso che sono prodotti che lo descrivo molto, molto semplicemente, almeno ci provo, è quello di avere delle posizioni lunghe. Cosa vuol dire? Comprare un basket, un portafoglio di titoli che mi piace, che penso che possa fare meglio del mercato, e poi dall'altra parte mi copro dal rischio mercato vendendo ad esempio contratti a termine sui mercati. Quindi alla fine io isolo quello che è il rischio di mercato, ed è quello il discorso della decorrelazione, cioè levo quello che è, diciamo, la sensitività all'andamento generale del mercato, e quello che trattengo come risultato è quello che questo basket, i titoli che ho scelto, possono fare di meglio rispetto al mercato di riferimento. Spero di essere stato sufficientemente, è chiaramente un argomento molto tecnico, ecco. Però certamente abbiamo visto che alcuni di questi prodotti hanno avuto, soprattutto in questa fase negativa, una buona tenuta, proprio perché hanno isolato quello che è stato l'andamento negativo complessivo del mercato. Direi che una parte interessante del portafoglio può essere investita in questi strumenti, adesso magari non marginale, certamente non prevalente. Dipende molto anche dalla, come dire, propensione al rischio del cliente. Ecco, è chiaro che questi sono strumenti che hanno una volatilità più contenuta, sì. Quindi può piacere questa caratteristica. Ricordiamoci che però anche questi non sono la panacea per tutti i mali, perché poi molto spesso quando ci sono fasi negative ci si innamora un po' di questi concetti, no? Quindi il fondo che sale sempre in qualsiasi condizione. Ecco, guarda, se ci fosse non staremmo qua a parlare di tutto questo stamattina. Tanto che lo stiamo cercando ma non lo abbiamo ancora trovato, ecco, però sicuramente volatilità contenuta. Allora, io devo dare la linea adesso al traffico, però chiedo proprio una piccola derega a Carmelo Lauricella, perché il domandone vorrei farlo rapidamente. Carmelo, ce l'abbiamo la sigletta del rischio, tutto, vai. Così faccio scaldare i nostri ascoltatori. Allora nel gergo finanziario, guardate, se non mi rispondete a questa domanda ci rimango proprio male. Nel gergo finanziario, qual è il concetto opposto, contrario alla diversificazione? 800 24 00 24, noi accettiamo solo le risposte, se volete avere diritto al libro, che arrivano all'800 24 00 24, quindi al numero verde. Adesso il traffico, possiamo sentirlo. Cuore e denari. Va bene, la rifaccio, la nostra domandone, il nostro quizzettone nel gergo finanziario: qual è il concetto opposto alla diversificazione? 800 24 00 24, numero verde al quale potete rispondere. Intanto Massimo ci scrive, dottor Gaudio, questo: vi spiego la mia allocazione, 25% oro, 25% in S&P 500, che è il principale paniere americano, 25% obbligazionario a breve termine, 25% obbligazionario a 10 anni. Poi ci fa tutta una considerazione ribilanciata: quando una componente avesse superato il 35%, fosse scesa del 15%, avrebbe reso dal 2007 al 2015 oltre il 7% annuo composto, con l'anno peggiore, il 2008, chiuso a circa il meno 2% e con un massimo inferiore al 9%. Lui dice, adesso vabbè, qua dovremmo ragionare un po' guardandoci bene appunto questa sua diversificazione, quella di Massimo, ma lui dice chissà quanti fondi comuni hanno fatto meglio. E però insomma Massimo magari avrà avuto anche un'attenzione veramente molto accurata, insomma, del suo portafoglio. Magari chi va sul fondo di investimento può, come dire, non fare questa manutenzione esagerata periodica, che dice dottor Gaudio? Beh, direi la proposta che io mi sono segnato accuratamente dell'ascoltatore è interessante, nel senso che si vede che l'ascoltatore ha dato molta importanza alla decorrelazione tra i diversi pezzi di questo portafoglio, cioè, quindi ha messo insieme delle cose che giustamente vanno in maniera diversa a seconda delle condizioni del mercato. Sì. Attenzione solo una cosa, che lui dice dal 2011 è andato molto bene, se ho ben compreso. È anche vero che alcune parti di questo portafoglio nel 2011 avevano dei rendimenti prospettici molto più elevati di quelli che possono avere oggi. Cioè, quindi gli è andata bene, l'ha costruito bene. Teniamo conto che però una parte a breve termine oggi rende molto meno che nel 2011, e il long bond, se ho capito bene, quindi obbligazionario a lungo termine, oggi è ai livelli minimi. Quindi che non si aspetti, diciamo, una performance similare nei prossimi anni, anche se comunque è costruito in maniera intelligente in termini di decorrelazione dei pezzetti, delle componenti che ha incluso all'interno del portafoglio. Quindi bene, un po' di attenzione al futuro. Loris ci scrive: Deborah, voi dite che il titolo di Stato non rende, ma il BTP a 30 anni, ogni 10.000 euro, cedola 900 euro netti. Per chi volesse, come dire, questa tredicesima ogni anno derivante da un investimento di questo tipo, effettivamente ce l'hai. Allora qual è il rischio di fermare una piccola fetta del proprio portafoglio per 30 anni su un titolo di Stato italiano? Beh, il rischio qual è? Il rischio è che siamo ai livelli di rendimento a scadenza, quindi distinguiamo la cedola che si prende ogni anno dal rendimento a scadenza. Rendimento a scadenza questi vuol dire 10.000 euro fra 30 anni. Il problema è che si compra oggi dei BTP che sono in gran parte sopra il nominale, come si dice, sopra la pari. Quindi io vero porto a casa di qui a 30 anni delle cedole magari importanti, però nel frattempo magari li compro a 130, 140 e mi vengono rimborsati a 100. Quindi il rendimento a scadenza è data dalla somma di queste due componenti. Per cui è vero, la cedola è importante, su alcuni BTP rimane importante, però quello che va visto se uno vuole detenere il titolo fino a scadenza è proprio il cosiddetto rendimento a scadenza, che oggi è ai minimi di sempre. E quindi l'importante è conoscere la dinamica del funzionamento, certo, del titolo di Stato e fare le scelte di conseguenza. A proposito di questo, Luciano da Parma, lui dice: io bond neanche ne voglio sentir parlare. Luciano, buongiorno. Buongiorno. Sono appunto Luciano da Parma e le dico anche l'età, perché sembra più delle volte, sentendo trasmissioni finanziarie, che il tipo di investimento che uno deve fare è un po' correlato all'età che uno ha. Ho 67 anni. No, più che altro, Luciano, agli obiettivi di vita, diciamo, se lei non ha per esempio l'esigenza di farsi, non l'aspettativa, un altro concetto, se lei per esempio non ha bisogno di costruirsi la pensione, non ha 30 anni e quindi non ha bisogno di costruirsi la pensione, fa una scelta di investimento che sia da ragionare in funzione a questo, quindi non è legata alle aspettative di vita, uno investe perché immagina di campare fino a 80, 90, 100 anni, però anche quello è importante. Quando ero giovane, diciamo, quando ho cominciato a guadagnare e a lavorare, non so perché sono sempre stato un po' contrario ai titoli di Stato, perché quasi mi sembrava di sovvenzionare lo Stato, e siccome lo Stato è un po' scialacquatore, ci stavo lontano. Dice, con i miei soldi non mi piace quello che ci fa, per cui anche se mi dà un po' di interessi non me ne importa. Era una antipatia che avevo e che mi è continuata a rimanere fino adesso. E quindi? Allora dico, senza fare grandi discorsi complicati, io investo sempre un po' in azioni, in ETF, e tengo anche, diciamo, del contante, del liquido per poter eventualmente seguire gli andamenti, come ci sono stati ultimamente, oscillanti, in modo da mediare un po', anche se non so che non è proprio il massimo dell'investimento, non sempre, ma cercando è un atteggiamento di mediare un po', vabbè, per abbassare se c'ho qualche titolo un po' più alto come prezzo d'acquisto. E quindi, Luciano, chiusa questo racconto, ha una domanda per Vittorio Gaudio? Sì, la domanda è questa qui, che io ho azioni, poi ho ETF che raggruppano. Sì, ce l'ha raccontato tutto, prima. Ok? Ecco, l'unica cosa che mi dispiace è che purtroppo le minus e le plusvalenze tra ETF ed azioni mi sembra di capire che non esiste, cioè se io ho delle minusvalenze non si possono compensare, dice non lei. Non si possono, Luciano, compensare. E qua Vittorio Gaudio, allora, nel momento in cui lo faremo ministro dell'economia e delle finanze, gestirà anche questo problema di carattere fiscale, dottor finanze, Gaudio. Dice. Ecco, esatto, per cui veda un po' lei, d'altronde. No, io magari se posso faccio una considerazione proprio sull'allocazione, che forse è l'aspetto più importante di quello che diceva l'ascoltatore. Beh, io credo che l'azionario, soprattutto se è un azionario con dividendi interessanti, io spero che l'ascoltatore si sia orientato in questa direzione, può essere un ottimo sostituto dei titoli di Stato, soprattutto se uno ha una visione effettivamente di medio-lungo termine. Quindi oggi abbiamo dei dividendi a livello mondiale, non tanto solo in Italia, ma su azionario mondiale, molto interessanti, io coglierei questa opportunità. Allora, sentirei Claudio da Modena, che si candida a rispondere al nostro domandone di oggi. Claudio, benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Sì. La mia parola è concentrazione, concentrare comunque tutto quello che è risparmio in un'unica soluzione. Il concetto opposto della diversificazione, bravo. Claudio, grazie. Naturalmente le arriveranno i nostri libri. E come ah, i nostri addirittura. Ma sì, non gliene vuoi regalare anche uno di denari? Ce l'abbiamo, dottor Gaudio, vede come sperperona. Allora, in realtà qua abbiamo 40 secondi, non abbiamo un minutino di tempo prima di salutarci, non abbiamo fatto in tempo a parlare di Cina, che adesso ci preoccupa un po' meno, ma insomma la borsa di Shanghai ha fatto meno 20% dall'inizio dell'anno, è stata messa anche di nuovo sotto osservazione da Moody's, e tutta questa discesa, dottor Gaudio, un tema che seguiremo insieme a Donald Trump tutto l'anno, la Cina di nuovo. Ma io più che la borsa cinese guarderei con attenzione alla valuta cinese, ecco, che credo che sia l'elemento più importante che si sta guardando in questa fase, perché è chiaro che un forte deprezzamento a valuta cinese avrebbe degli effetti diciamo invasivi su tutti i mercati, quindi la borsa cinese è piccolina, non ha questa grande importanza, la valuta cinese è ben più importante. Avevi 3 secondi, una cosa carina su WhatsApp, Nicoletta? Sì, c'era un ascoltatore che dice, scrive: ho investito in un appartamento 100.000 euro, affittato a 500 euro, cedola secca 10%, rendimento 4.5 netto, oggi chi lo dà? Dottor Gaudio? Beh, prima di tutto viva l'economia reale, speriamo che appunto anche questo aiuti la crescita italiana. Beh, ci sono dei bond, delle obbligazioni che rendono altrettanto, chiaramente anche di più, e chiaramente sono più rischiose, parliamo della yield, parliamo dei mercati emergenti, quindi esistono rendimenti di questo tipo, naturalmente non c'è più quello che rende tanto con rischio basso. Quello è finito. Esatto, ce lo siamo scordati. Grazie a tutti, grazie dottor Gaudio per essere stato con noi. Investire informati torna la prossima settimana. No, invece domani. Investire informati settimana prossima. Noi domani però qui. Senza il dottor Gaudio, pazienza, ma con Nico e Deborah. A domani. Arrivederci.